ne patro sono arresi. Dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, l'unità è la loro forza e la strada è il loro credo, contro i fasci la loro rabbia, sopra i muri il loro nome. Dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi. Un salutone a tutti e tutti, ore 13.30 circa, e quindi passaggio a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che parla dei fatti che avvengono, che succedono e accadono nel quadrante nord-ovest di Firenze, raccontati da chi i fatti li vive. Quindi interviste dirette, interventi da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. Tutti i lunedì dalle 13.30 in diretta e successivamente dal martedì al venerdì sempre dalle 13.30 in replica. Ricordiamo che potete scaricare il podcast della trasmissione, cioè la registrazione, andando sul sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org. Nella prima linguetta a sinistra c'è il primo menu a sinistra, podcast, scorrendo giù fino a passaggio a Nord-Ovest. Sempre qui su Radio Wombat oggi parliamo di sfratti in città in senso generale e in particolare sulla zona nord di Firenze. Ne parliamo con rappresentanti del movimento di lotta per la casa che si oppongono quotidianamente ormai da anni a questo stillicidio di sfratti e che loro stessi chiamano questa una battaglia contro la mattanza degli sgomberi, quotidiana degli sgomberi e degli sfratti. Ricordiamo le coordinate Radio Wombat, wombat.noblogs.org, per corrispondere posta wombat @insiberia.net. E inoltre gli account sui social network, sia su Twitter che su Facebook, Radio Wombat Firenze. Come prima domanda, una panoramica generale sugli sfratti a Firenze in questo periodo. Allora, si è determinata negli ultimi anni una situazione praticamente paradossale, cioè che cosa sta a significare? Significa che davanti a fenomeni di resistenza umana, di picchetti, di solidarietà, no? Perché il comitato antisfratti del movimento ha chiamato in varie zone della città a un'attività di mutuo soccorso, di organizzazione sociale, di solidarietà comune, però questa dimensione ha sorpreso inizialmente come dire, le associazioni dei proprietari, il tribunale, le forze dell'ordine, gli ufficiali giudiziari, perché dietro a ogni sfratto c'è un piccolo esercito di persone che si muovono. Dopo hanno preso le contromisure. Le contromisure che cosa sono? Sono dei provvedimenti ad hoc speciali e dei comportamenti non da parte degli inquilini sotto sfratto, ma da parte dei proprietari e anche degli ufficiali giudiziari e dei tribunali, dei comportamenti ai limiti della legalità, se non addirittura fuori dalla legalità. Cioè che significa? Significa che oggi i proprietari, quando vedono un picchetto antisfratto, spesso o non danno data, gli ufficiali giudiziari, scusate, non danno il rinvio e dicono ma torneremo chissà quando, o restituiscono gli atti al giudice, ma non fanno sapere più nulla all'inquilino sottosfratto, il che significa che parte quel meccanismo che noi chiamiamo dello sfratto a sorpresa, per cui il giudice riconvoca le parti, stabilisce ovviamente, come fanno nel 90% dei casi, che il proprietario ha ragione e non fissa una data. La data viene determinata da l'ufficiale giudiziario e la polizia. Per cui ci siamo trovati in alcune situazioni, sia a Firenze che a Fiesole, con questi sfratti a sorpresa con decine di poliziotti come se fossero uno sgombero di uno stabile occupato, cioè che 40, 50 o poliziotti o carabinieri a seconda delle zone della città si muovono, arrivano all'improvviso e buttano fuori la famiglia. Il meccanismo è illegale perché in genere quando si restituisce gli atti al giudice ci deve essere una motivazione forte. Motivazioni forti dopo un primo rinvio non esistono e soprattutto sono pratiche che non fa più un solo proprietario, ma sembra una decisione combinata dall'unione dei piccoli proprietari in accordo con il giudice, l'associazione, la Confedilizia. Cioè ci sembra che ci sia una manovra intorno a questa dimensione degli sfratti per farli eseguire che è stata intrapresa in sedi particolari di cui noi non sappiamo niente, per cui dentro i limiti della legalità, perché l'inquilino anche sullo sfratto a sorpresa dovrebbe essere avvertito, o perlomeno i fascicoli gli dovrebbero essere dati, o perlomeno l'udienza dovrebbe essere avvertito. Non si sa più nulla, quindi questa situazione sta determinando un po' di angoscia da parte nostra, perché ovviamente non sappiamo come muoverci in alcuni casi, si deve arrivare all'improvviso, come è successo di recente a Fiesole, e provare, in quel caso ci siamo riusciti, a bloccare lo sfratto, o in situazioni in cui non c'è nulla da fare perché si viene ad arrivare, magari la famiglia non c'è, è a lavorare il marito o non esiste nessuno nella casa e vengano buttati fuori a loro insaputa. E sono successe ormai troppe di queste cose. Questa è la situazione nuova, cioè l'illegalità da parte delle proprietà e da parte dei giudici. Il resto, la situazione è uguale, cioè nonostante la crisi, nonostante dicano che siamo usciti dalla crisi, la realtà parla di 5.000 sfratti per morosità nei prossimi 4 anni, parlano di gli affitti non sono calati, anzi in alcune zone della città, nella zona nord in particolare, sono addirittura aumentati. Il problema degli sfratti non appartiene più solo a, diciamo, alla cintura urbana, ma a Campi, Sesto, Scandicci, Pontassieve, tutti i comuni del comprensorio fiorentino, per cui è una realtà che si può chiamare tranquillamente una mattanza. È possibile quantificare, proprio al di là di quelli che sono previsti nel futuro, quantificare nel passato quanto sono stati gli sfratti in città, quanti ne state difendendo anche negli ultimi mesi? Sì, è possibile farlo, nel senso che nel 2015 gli sfratti eseguiti sono stati eseguiti 800, cioè con un aumento di 150 rispetto all'anno precedente che erano stati 650. Ora tenete presente che non tutti gli sfrattati vengono al movimento di lotta per la casa, ci sono i sindacati ufficiali che però stanno perdendo consenso per un insieme di motivi che non perché hanno capito tutti che per difendere gli sfratti e per entrare in un meccanismo di assegnazione di case popolari è difficile, è dura, è lotta dura, come si diceva una volta, per cui molti vengano direttamente al movimento. Noi difendiamo come minimo 3-4 sfratti a settimana, insomma, esecutivi. Poi ovviamente molta gente ci contatta prima perché arriva all'ultimo giorno, sull'esecuzione è difficile, però sono tantissimi le persone che si rivolgono al movimento per il problema dello sfratto. Tenete anche presente che è uscito un bando che scade il 27 di novembre che è particolarmente rognoso sulle forme e sui criteri dell'assegnazione, in particolare cancella definitivamente il punteggio per lo sfratto per morosità. Noi avevamo fatto una battaglia che avevamo vinto per riconoscere la morosità incolpevole una decina di anni fa, perché fino al 2006-2007 il moroso era considerato un appestato, un, dentro le vecchie regole della regione toscana e del vecchio partito comunista, chi non pagava l'affitto era fuori da ogni dinamica di aiuto. Avevamo avuto questo riconoscimento sull'amorosità incolpevole, eravamo riusciti a fare una battaglia seria e ora c'è stato nuovamente cancellato tutto, per cui gli sfratti per morosità sono il 92%, immaginatevi, nessuno c'ha punteggio ed è ovviamente si resta nella confusione, nel caos. Ci sono delle specificità rispetto alla zona nord? Ci sono delle specificità rispetto alla zona nord di Firenze e anche dei comuni limitrofi, sempre la zona nord, come Campi o come Sesto? E inoltre cosa ci potete dire in particolare della situazione via Castelnuovo Tedesco, che è una situazione, diciamo, a cavallo tra lo sfratto e lo sgombero? Sappiamo anche che in questi giorni, in questo mese, c'è una difesa continua, o comunque spiegateci meglio, di una situazione in via del Lucio, che è vicino via nella zona di via Pistoiese. C'è un aumento, cioè ogni mese gli sfratti in zona nord sono tantissimi, in particolare a Novoli, che è diventata negli ultimi anni un territorio di conquista della speculazione. Poi ovviamente noi ora non abbiamo più il calendario degli sfratti perché c'è stato tolto, però gli sfratti in zona Novoli e anche in zona Careggi sono tantissimi. Sulla questione di via del Lucio, la questione di via del Lucio è bloccata, nel senso che gli sfratti continuano a esserci, continuano a rinviarli, tutti gli immobili, diciamo, che erano stati dati in gestione al comune e a Casa S.p.A. sono in vendita. C'è stata una prima asta che è andata deserta, ora ci sarà un'altra asta. Non ci sono, allo stato attuale, non c'è nessuna proposta da parte del comune per le 70 famiglie messe tramite bando comune garante, in cui allo stato attuale non c'è soluzione. Noi abbiamo proposto di requisire questi alloggi perché la proprietà è fallita, abbiamo proposto diverse cose per rimanere, per fare sì che gli inquilini rimangano lì, anche perché hanno pagato delle cifre esorbitanti rispetto alla loro situazione reale, ai loro, come dire, al loro rendiconto economico. Qui la situazione è paralizzata. Via del Lucio invece è un'occupazione, ha un'occupazione oltretutto che ha avuto il merito di fare una proposta sull'autorecupero interessante, ha avuto l'appoggio di molti cittadini della zona. La proprietà invece vuole trasformare la fabbrica in 12 appartamenti, un po' con quelli che aveva proposto l'occupazione stessa, e ci vuole speculare sopra e non accetta nessun tipo di mediazione. Poi bello la diretta, chiaramente prima quando Lorenzo ha parlato di via del Lucio, dei 70 appartamenti, si riferiva a via Castelnuovo Tedesco. Diciamo che il problema, anche da queste poche parole, come abbiamo potuto capire, è grosso da un punto di vista numerico e devastante anche da un punto di vista, diciamo, psicologico, sociale, per quanto riguarda quelli che sono colpiti dallo sfratto. La trasmissione si chiude qui per il momento, prossimamente ci saranno aggiornamenti e altri interventi da parte di chi quotidianamente lotta sul territorio per impedire queste cose. Ricordiamo le coordinate Radio Wombat, radiowombat.noblogs.org, posta Wombat @inseveria.net e i social network, sia Twitter che Facebook, Radio Wombat Firenze. C'è anche chiaramente un punto di riferimento, un momento di riferimento del movimento di lotta per la casa, che sia dal punto di vista di posta elettronica per contattarli. Per contattare i movimenti Lotta per la Casa, movimenti Lotta per la Casa, @gmail.com, altrimenti operativa la sede in via Luca Giordano 4 e anche il profilo Facebook Movimento di Lotta per la Casa.